prima a cui cedo la parola è Ofelia, che fa parte della rete redattori precari, che legge dei passi precari. È il tuo compito. Sì, ciao a tutti. Allora, dunque, io sono anch'io, faccio parte di RerePre e abbiamo pensato così di iniziare questa tavola rotonda rompendo un po' il ghiaccio con quelli che sono racconti di vita che potete trovare sul nostro sito, che abbiamo insomma raccolto chiedendo a chi come noi ha questa esperienza in editoria, vive la nostra stessa condizione di precarietà, di interpretarla, riuscirla a mettere sotto forma di racconto. Ne ho scelti tre perché altrimenti il tempo sarebbe stato troppo lungo. Allora, il primo. Corso di editoria delle mie brame. Ma come? Tutti e 15 da voi? Non avevate fior di contratti con varie case editrici? Beh, sì, ragazzi, ci avevano promesso di prenderne qualcuno alla A e qualcuno alla B, ma siccome in tempi per l'inizio dello stage sono a ridosso e alla casa editrice giuridica nessuno di voi ha le giuste competenze, rischiate di perdere la possibilità dello stage, vi conviene accettare di farlo da noi. Ma poi quanti ne prenderete effettivamente dopo lo stage? Visto che si tratta di farlo a titolo gratuito, vorrei giocarmi le carte in un posto dove poi potrebbero tenermi. Se no che senso ha fare un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo? Non mi fidai. Immisi da sola in caccia di uno stage, ottenendone uno a fatica in un altro posto. Lì mi avvertirono subito che era solo formativo, senza possibilità di assunzione, forse qualche futura collaborazione esterna. Ma come? E mi dissero, lo sanno tutti che nelle redazioni non assumono più. Ci sono contratti precari, non conviene più stabilizzare i redattori. Si fidarono. In cinque, della casa editrice piena di contatti che organizzava il corso di redattore editoriale. Cinque stage gratuiti di 3 mesi, 0 assunzioni, 0 collaborazioni. Hanno tutti cambiato mestiere. Io sono stata tra le più fortunate. Dopo il corso mi sono mossa da sola e dopo anni di gavetta ora posso dire di essere una coco pro. Ma continuo a vedere spuntare come funghi i corsi per diventare redattori editoriali. E mi domando, procurano lavoro a chi frequenta il corso o a chi il corso lo organizza? Beh, insomma, morale, se avete intenzione di intraprendere questo mestiere, valutate bene i corsi di formazione. Qualcuno buono che mette davvero le carte in tavola ce n'è, e non fidatevi di quelli che offrono facili prospettive nell'editoria, perché qui di facile non c'è proprio niente. Insomma, racconti autobiografici che affrontano i vari aspetti, insomma, di questa professione. Prego. Allora, il secondo, la fretta. Io faccio un lavoro strano che consiste nel prendere i libri che si trovano nella mente delle persone e tradurli in carta da vendere. Per farlo mi pagano. Ho un capo, una scrivania, il telefono, tutto quanto mi serve. Ho tanta carta a disposizione, risme in A3, A4, A5, A6, A10, A1000, quello che voglio. Certe volte stampo un foglio in A3 e viene fuori un lenzuolo, bianco, caldo, col fiuto d'inchiostro. Le stampanti sembrano forni nel cuore del mercato. E a chi vi dice che i lavori d'ufficio spersonalizzano le persone? Ridetegli in faccia e assaporate il caldo della vostra sedia mentre guardate fuori il diluvio. Nel mio lavoro succedono cose strane. Ad esempio, la gente è molto stupida perché fa finta di avere fretta. Mio padre faceva il medico e non aveva mai fretta, eppure riusciva a precipitarsi da un paziente se stava male. Conosceva la differenza tra la fretta e l'urgenza. Mio padre aveva fretta quando c'era urgenza. Mentre nel nostro lavoro tutti hanno fretta, a prescindere dall'urgenza. C'è gente che ha talmente fretta che ha bisogno di calmarsi e ogni tanto viene da me e mi dice «Senti, ma non è che puoi avere fretta al posto mio?» Di solito uno risponde di sì, per educazione. Bisogna dare tempo a queste persone di riposarsi, respirare, sorridere. A volte, per avere fretta al posto loro, ti pagano pure. E quelle volte diventa tutto molto strano, perché chi prima aveva fretta non si riposa lo stesso, perché siccome ti ha pagato pretende che tu faccia le cose con la fretta giusta. Non so se ci crediate o no, ma è proprio così che nascono i libri cattivi. Quando alla somma delle frette di ciascuno si aggiunge l'ansia di non dover sprecare il proprio denaro. Ma come, direte voi, è un lavoro come un altro il tuo, in tutti i lavori bisogna rispettare calendari, tempi, scadenze. Ma il punto non è questo. Il punto è che noi che facciamo i libri non abbiamo la possibilità di contrattare i nostri tempi, mentre altri lavoratori sì. Ecco perché vogliamo provare a unirci, per mettere un po' di calma in questo lavoro. Che è bello! Per cui, se non avete avuto scelta e siete stati tanto educati da accollarvi la fretta altrui, magari in cambio di una somma sempre decisa da altri e adesso siete stanchi, non scaricate la vostra fretta su qualcun altro, ma fermatevi qui e fate un po' di silenzio. Poi respirate e prendete la parola, ma solo quando sarete pronti, senza fretta. L'ultimo. Se volete ve ne leggo un'altra, se no me ne vado. A credito diretto a curriculum vitae, l'uomo e lo yogurt. Ora, voi vi chiederete, ma che titolo è mai questo? Per forza che poi uno non trova lavoro, non sai nemmeno scrivere. Con calma un attimo, prego, ora vi spiego. Una volta, parliamo di una decina di anni fa, c'erano due figure lavorative, l'assunto e il disoccupato. Ma ora siamo nell'era del multimarket, bisogna moltiplicare le offerte e il lavoratore non è poi tanto diverso dallo yogurt. C'è quello con i pezzi, quello frullato, quello ai cereali, quello contro la stitichezza, tanto famoso in TV, e in un'ultima la mousse. Orbene, il destino dell'uomo è simile in tutto e per tutto a quello dello yogurt. L'industria culturale è affamata, ma ha buon gusto, non pretende di tutto e nel suo fagocitare seleziona. Vengono così a delinearsi differenti figure lavorative e soprattutto se ne creano delle nuove e inaspettate, talmente straordinarie da sembrare assurde. Ma è per via del fatto che voi non siete allenati in materia, siete rimasti un po' all'asciutto in quanto a concetti, per cui accettate di buon grado un aiuto da parte mia nel fare ordine. Innanzitutto c'è il lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Vorrei spendere due parole sul soggetto, ma è talmente raro che parlare di lui o di Superman è la stessa cosa, quindi ve lo evito. Poi c'è il dipendente a tempo determinato. Anche lui, come lo yogurt, ha una scadenza. Tuttavia la sua conservazione è più lunga e si aggira di solito intorno all'anno, con un po' di fortuna qualcosa in più. Il collaboratore è una sorta di jolly dell'industria, che lavori a casa in un ufficio non fa poi tanta differenza. Sgobba spesso a cottimo e quando vi siete rotti le palle di vederlo nel frigorifero lo potete sempre buttare via. Lo stagista è merce preziosa. È una mousse di ideali di provenienza direttissima dal caseificio universitario. Ingenuo com'è, con due sacchi di patate, un rimborso sui biglietti del treno e una scheda per la mensa, accetta di buon grado di lavorare per voi. Non date gli incarichi troppo importanti, lui si aspetta di fare fotocopie, ed è bene che non lo deludiate. In ultimo, poi, ci sarei io. Per farvi capire come sono messo, devo ammettere che invidio un po' lo stagista, abbastanza il collaboratore e molto l'assunto a tempo determinato. Ah, dimenticavo l'indeterminato, ma ribadisco, per me è come Superman, è un eroe televisivo. Gli altri, malgrado si lamentino per la loro precarietà, quantomeno hanno un lavoro e quel tanto odiato misero stipendio. Io invece sono molto più fortunato di loro. Idealista come sono, non mi devo macchiare col vil denaro. Per me è stata scelta la formula a credito diretto a curriculum vitae. In cosa consiste? Tu per lavorare lavori, solo lo fai gratis. Se gli chiedi cos'è che ci guadagni, la risposta è sempre la stessa. Può vantare la nostra collaborazione a curriculum vitae. Il problema è che con quello non ci compri nemmeno lo yogurt, ma la prossima volta che vado in cassa provo a strisciare il curriculum al posto del bancomat, che tanto non ho.